America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Ieri in chiusura di trasmissione vi ho detto che avremmo parlato oggi di questa tragica vicenda di Cleveland, le tre ragazze che sono state liberate dopo 10 anni di prigionia, e ve ne parlo oggi con un maggior approfondimento perché abbiamo avuto una serie di dettagli che hanno dato uno spaccato di quello che è stato l'incubo della vita di queste tre ragazze in questo periodo, schiave del loro rapitore Ariel Castro, 52 anni, che sembra abbia rapito anche un'altra ragazza di cui non si sa nulla e si teme che sia stata invece uccisa. C'è anche il destino di questa bambina di 6 anni, la figlia di una delle tre rapite, la figlia di Amanda Berry, che fu rapita a 16 anni, oggi ne ha 27, era stata vista l'ultima volta il 21 aprile del 2003 mentre usciva dal ristorante dove lavorava per tornare a casa e non si è saputo più nulla. Poi Michelle Knight, che aveva 20 anni quando fu rapita nel 2002, infine Gina De Jesus, e ieri proprio Gina, che aveva 14 anni, la più piccola, quando scomparve tornando a casa da scuola il 2 aprile del 2004, è finalmente tornata a casa. Avete sentito gli applausi con cui Gina è stata accolta dai vicini per questo suo ritorno a casa, un ritorno assolutamente commosso e commovente. Vi dicevo delle tante trasmissioni televisive, le dirette ieri si sono sprecate, devo dire che ci sono alcuni aspetti scabrosi, dunque preferisco avvertirvi prima di darvi alcune delle descrizioni che abbiamo avuto. Il livello di umiliazione, di degrado a cui queste ragazze sono state sottoposte è veramente a dell'incredibile. Pensate che a volte erano costrette a camminare a quattro zampe nel giardino e questo Ariel Castro le teneva al guinzaglio oppure le legava addirittura, vivevano nello scantinato ed erano sottoposte a delle violenze durissime. Questo Castro era stato sposato con Grimilda Figurea, che è morta l'anno scorso, aveva solo 48 anni in circostanze che non sono ancora note, ma ci sono state delle denunce da parte della Figurea nel 2005 quando già aveva rapito queste ragazze e Castro le aveva provocato fratture multiple al naso, rotto delle costole, asportato dei denti, procurato ematomi cerebrali. E lo scandalo dov'è? Lo scandalo è che nonostante le denunce la polizia non l'ha arrestato, la polizia ha chiuso il caso, la polizia non è andata a casa a fare un'ispezione, a cercare di capire che cosa succedeva. Una polizia che troppo spesso, temo, si muove così a senso unico, usa questo suo potere straordinario, perché i poliziotti americani hanno un potere assoluto nei confronti di chi arrestano e nel gestire quello che è il loro potere di essere l'autorità costituita con la pistola in mano. Eppure, in una situazione di questo genere, neanche un detective si era recato alla casa di questo signore, nessuno fra gli investigatori ha collegato delle denunce precedenti, alcuni vicini che avevano detto: ma noi sentiamo dei rumori strani, ci sembra che ci sia qualche cosa che capiti in questa casa di pericoloso. Ecco, c'è stato un grosso fallimento del dipartimento della polizia di Cleveland. E com'è che si è riusciti a scoprire, a portare alla luce questo caso che altrimenti chissà, magari sarebbe durato per altri 10 anni? I meet my McDonald's, come outside, I see this girl going nuts, trying to get out of a house. I go on the porch, and she says, "Help me get out. I've been in here a long time." Charles Ramsey. Beh, Charles Ramsey è l'improbabile eroe di questa vicenda. È un uomo di colore, un afroamericano che, a vederlo e a sentirlo, come lo avete sentito, insomma, non ha certo l'immagine, l'idea di essere un personaggio che all'improvviso diventa Superman. Le sue prime parole sono: beh, io mi stavo mangiando il mio McDonald's, il mio hamburger, quando all'improvviso, passando davanti a questa casa, sento queste urla, questi rumori, vado, cerco di capire cosa succede, la porta è chiusa, mi dicono apri la porta, ci proviamo, alla fine la sfondiamo e mi accorgo che dentro c'è qualche cosa che davvero non funziona, forse si tratta di una situazione di violenza domestica, e finalmente vedo che questa ragazza esce. E come reagisce? Che cosa passava per la testa di Ramsey in quel momento? Sentiamolo. I knew something was wrong when a little pretty white girl ran into a black man's arms. Something is wrong here. Dead giveaway. Either she homeless or she got problems. That's the only reason why she run to a black man. Ecco, lo avete sentito, e questo vi dà anche un po', se volete, la misura di come i rapporti dal punto di vista razziale negli Stati Uniti sono ancora molto tesi. In alcune zone periferiche delle grandi città, delle povere città americane, perché poi ricordiamolo, Cleveland è una delle città che ha sofferto più di altre la crisi, una città con interi quartieri disastrati. Ecco, e Ramsey dice: quando vedo che una ragazza bianca si butta addosso a un uomo di colore, a un black man come me, allora ho capito che c'era davvero qualche cosa che non andava. E subito, appena riescono a sfondare questa porta, esce questa ragazza, esce con la bambina di 6 anni, sua figlia, e dice: chiama la polizia, perché io sono Amanda Berry. Help me, I'm Amanda Berry. You need police, fire, or ambulance? I'm the police. Okay, and what's going on there? I've been kidnapped and I've been missing for 10 years, and I'm here, I'm free now. Okay. Okay, I'm away right now. I need We're gonna them send now. Them as soon as we get a car open. No, I need them now before we get back. Sentite questa conversazione drammatica, Amanda Berry che dice appunto al 9-11, alla polizia: io sono Amanda Berry, dovete venire a prendermi, ma venite subito perché ho paura, altrimenti che torni il mio aguzzino, quindi venite subito a prendermi. E sono venuti, l'hanno presa, si sono accorti che in casa c'erano le altre due donne, le hanno appunto portate all'ospedale. Il resto è storia. Altra notizia di ieri: Ariel Castro è stato incriminato. Ecco, nel 2004, vi ho detto, la polizia era già andata a casa di Castro, che lavorava come autista di uno degli autobus scolastici, per interrogarlo perché aveva dimenticato sull'autobus un bambino, e gli agenti provarono a suonare il campanello, però nessuno aprì la porta e se ne andarono. Ecco, questo è un altro esempio di come la polizia in qualche modo ha fallito. E poi questo Castro, pensate, andava al parco con questa bambina di 6 anni, che appunto era la figlia di Amanda ed era figlia sua, sembra. Pare che ci siano stati, tra l'altro, altri 6 o 7 casi in cui le tre ragazze sono rimaste incinta e sono state poi picchiate duramente per costringere all'aborto con la violenza. E quando era al parco diceva: beh, è la figlia della mia ragazza. Una tragica, tremenda, triste storia americana. La madre di una delle ragazze è morta di crepacuore pochi anni dopo il rapimento, ma almeno le famiglie, i genitori delle altre due stanno passando dei momenti di felicità che non credevano avrebbero mai vissuto. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno, il musical sui Beatles, Let It Be, arriva a Broadway. Quest'estate però si fermeranno solo per pochi mesi, dal 24 luglio al 29 dicembre. Per chi verrà in America in quel periodo, beh, prenotatevi, perché sembra sia fantastico. E dunque ai Beatles dedichiamo Let It Be. But though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer. Let it be. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.